parole nuove, occhi pieni d'amore lungo le nostre vie, senza fine, ricordi di un tempo, seduti in riva al lago, cammino da solo, indifferente della gente intorno, guardo, passo e sorrido, una penna tra le dita disegnerai i rintocchi delle note che risuonano nella valle, luci accese nelle piazze di questa lunga estate, leggero il vento attraversa un brivido dentro me. Mani immerse nell'acqua sugli scogli, pietre segnate con i nostri nomi, raggi di sole salutano le cime, acqua cristallina, ruscelli in armonia, suoni e sensazioni, immensi silenzi, piccoli stormi in volo colorano i rintocchi delle note che risuonano nella valle, luci accese nelle piazze di questa lunga estate, leggera.